Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi parliamo della gestione della casa, che diventa sempre più pesante per molte famiglie italiane, fra rate del mutuo, rate del condominio, il mantenimento della nostra abitazione, tutto costa e ogni giorno ci sembra, soprattutto in un momento difficile come questo, tutto particolarmente oneroso, un po' più oneroso probabilmente del passato. Oggi il Sole 24 Ore esce con il terzo numero della guida low cost di qualità, con al centro tutti i suggerimenti per organizzarsi al meglio con le spese della propria casa. I temi ci sono tutti, anche quelli che abitualmente affrontiamo a Salva Danaio: la compravendita, l'affitto, il mutuo e poi la ristrutturazione. Proprio di ristrutturazione oggi ci occupiamo nella nostra trasmissione. La legge finanziaria di quest'anno ha confermato il sostegno fiscale agli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche a quelli di riqualificazione energetica degli edifici. Allora, come districarsi fra gli sgravi fiscali che ci permettono di recuperare o il 36% o il 55% delle spese sostenute per rimettere a posto la nostra abitazione? Temi che affronteremo grazie anche alle vostre domande all'800 24 00 24, con Giovanni Tucci, Ufficio Studi Confappi, la Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare, che praticamente è tra l'altro l'autore al 90% della guida che esce oggi con il Sole 24 Ore. Poi abbiamo con noi anche Luca Ruffino, amministratore giudiziario presso il Tribunale di Milano e consulente di Assocond, che è l'associazione appunto dei condomini. Il numero verde ve l'ho ricordato, vi ricordo il numero a cui ci potete scrivere invece i vostri quesiti, il 349-238-6666. Prima però di entrare nel vivo della nostra trasmissione e del tema che abbiamo scelto oggi, andiamo invece al vivo della giornata in borsa, perché è una giornata buona, abbiamo gli indici tutti quanti positivi, però un po' sottotono rispetto all'apertura che era stata più brillante. Abbiamo una crescita adesso sul listino di Londra dello 0,7%, Francoforte più 0,58%, più prudente Parigi guadagna lo 0,12%, S&P MIB a Piazza Affari più 0,76%, MIBTEL più 0,91%. È una settimana importantissima quella che si apre oggi, con le elezioni americane di domani e poi la riunione della Banca Centrale Europea di giovedì prossimo, che è orientata a tagliare i tassi di interesse nell'Eurozona. E tra l'altro, a proposito di tassi di interesse, abbiamo l'Euribor a tre mesi sceso al minimo dal 1 aprile, al 4,73%, quindi, visto che oggi tra l'altro di casa parliamo, questo almeno per chi ancora una volta, il riferimento che facciamo, lo sapete, è sempre quello: a mutuo a tasso variabile, e non lo ha rinegoziato, non lo ha cambiato ancora al vecchio mutuo. Insomma, le rate sono in via di alleggerimento, almeno questa buona notizia insomma la accogliamo con un certo piacere. E per quello che riguarda gli altri temi di borsa, oggi ovviamente l'Europa è concentrata sulle notizie che vi abbiamo dato anche nel giornale radio, cioè le previsioni della Commissione europea, le nuove stime macroeconomiche sulla crescita dell'Eurozona per quest'anno e per l'anno prossimo. Lo avete sentito, insomma, le stime sul prodotto interno lordo sono state tagliate drasticamente, si va verso la recessione, siamo in recessione tecnica, ha detto Almunia, e la stessa indicazione vale anche appunto per l'Italia, che chiuderà il 2008 con una crescita zero. Altre notizie: a Londra Lloyds ha lanciato ufficialmente l'offerta su HBOS, quindi movimenti nel settore bancario. Il petrolio scende e siamo a $66.93 al barile quest'oggi. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio di riferimento americano, il Brent a Londra è sui 64, quindi anche queste buone notizie. Come al solito, il trasferimento al distributore di benzina è sempre piuttosto lento, ma insomma qualche risultato rispetto al record della scorsa estate lo stiamo anche vedendo. Lasciamo la borsa, ci torneremo se vorrete nel corso anche della trasmissione con nuovi aggiornamenti, magari un'occhiata ai migliori titoli di Piazza Affari: Finmeccanica più 6, Saipem più 5,20, Pirelli più 4,55, L'Espresso più 4,38. Abbiamo un rialzo di 4 punti quasi su Impregilo e su Tenaris, mentre oggi il mercato penalizza Unipol meno 2,39, Telecom meno 2, Buzzi Unici e Medital Cementi meno 2%, ribasso di 1,5% su Terna, Ubibanca meno 1,29. Abbiamo Fiat in rialzo dello 0,49%, stasera abbiamo i dati sulle matricolazioni italiane. Unicredito saliva bene questa mattina, adesso il rialzo dello 0,53%, il titolo fa fatica a mantenere 1,90 euro, ma insomma cerca di aggrapparsi a questa soglia che non vedeva da un po' di settimane. Euro su dollaro a 1,2873, lasciamo i mercati e andiamo invece ai temi legati alla gestione della nostra casa. Oggi a Salvadanaio parliamo degli sgravi fiscali legati alla ristrutturazione. Chi ha intenzione di effettuare dei lavori in casa, chi vuole dare un nuovo volto alla propria abitazione oppure intende ristrutturare un vecchio immobile, magari acquistato ad un prezzo d'occasione, può recuperare sulle spese di ristrutturazione il 36% dei costi sostenuti. Il fisco, infatti, consente una detrazione sulle opere di recupero edilizio, purché si rispettino alcune accortezze. La prima riguarda la comunicazione di inizio lavori, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate tramite il modello scaricabile dal sito internet dell'Agenzia prima dell'inizio dei lavori. Inoltre, per godere della detrazione, occorre pagare le spese per mezzo di bonifico bancario ed ottenere regolare fattura. Dal 2003 la spesa massima agevolabile è di 48.000 euro, che corrisponde ad un risparmio massimo di 17.280 euro, ossia il 36% che il fisco restituisce in 10 anni. Se i lavori però vengono effettuati seguendo criteri di riqualificazione energetica, allora lo sconto riconosciuto aumenta al 55%. Ha diritto ad una detrazione sulla spesa chi deve eseguire lavori di riqualificazione energetica complessiva attraverso interventi cosiddetti di tipo attivo, vale a dire sull'impianto calore, e di tipo passivo, cioè sulle strutture. Ma indipendentemente dal tipo di lavoro che si vuole fare, per un risparmio alla fonte è sempre bene ricorrere ad un professionista e stilare un capitolato di spesa. Solo così, infatti, si potrà facilitare il confronto tra un preventivo e l'altro ed eventualmente chiedere spiegazioni voce per voce dei singoli costi. Infine, il contratto dovrebbe specificare la tempistica di ogni fase dei lavori, così come le eventuali penali per ritardi o inadempienze. Il risparmio maggiore, inutile dirlo, si ottiene con il fai da te. Anche in questo caso si può ottenere la detrazione del 36%, ma solo sulle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati. Però insomma, magari questa, se proprio la dobbiamo scegliere, credo che possa essere indicata come ultima strada percorribile, perché poi non è che con il fai da te, sì, magari risparmiamo sicuramente, poi magari rischiamo di fare dei danni che ci costano di più per sistemare la situazione. Giovanni Tucci, buongiorno. Buongiorno. Autore, vi ricordo, in gran parte, in larga parte, insieme ad altri esperti del Sole 24 Ore, della guida che esce oggi con il lunedì del Sole 24 Ore, La casa, come risparmiare dall'acquisto alla ristrutturazione, ci aiuterà a capire insomma come possiamo ristrutturare ottenendo al meglio l'aiuto del fisco, insieme anche a Luca Ruffino, che saluto, per la prima volta a Salvadanaio, consulente di Assoconde, oltre che amministratore giudiziario presso il Tribunale di Milano. Oggi però non lo investiamo con le nostre domande in relazione a questa carica. Dottor Ruffino, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. E grazie del suo aiuto. Io volevo subito sentire da lei, dottor Ruffino, quali sono, relativamente al tema che stiamo affrontando questa mattina, i quesiti più diffusi che vi arrivano in associazione. Insomma, magari per esempio con la questione del 36%, noi viaggiamo in regime di proroga da ormai diversi anni, quindi questo incentivo fiscale lo si conosce abbastanza bene. Più recente è stato quello invece che riguarda il beneficio fiscale del 55% per interventi importanti delle nostre abitazioni che permettano risparmio energetico e riqualificazione energetica dell'edificio. Ma ci sono ancora aspetti poco chiari di queste norme? No, non ci sono aspetti poco chiari. Bisogna fare grande attenzione innanzitutto in ordine alla deducibilità fiscale. È bene ricordare ai radioascoltatori che si ha diritto alla deducibilità fiscale a condizione che si paghino imposte, perché la deducibilità fiscale è ai fini IRPEF e non può essere compensata e non si può andare in credito. Quindi questo è il primo aspetto da analizzare per il contribuente. No, questo tra l'altro è il motivo per cui la restituzione il fisco ce la fa dai 3 ai 10 anni, non ce la fa tutta in una volta, per esempio, no? Esatto, questo è anche in funzione dell'età, perché per esempio in funzione della classica deducibilità al 36% sino a 75 anni il beneficio si recupera in 10 anni, quindi in 10 rate, dai 75 agli 80 in 5 anni e oltre gli 80 anni in 3. Cosa diversa invece per la detrazione del 55%, meglio conosciuta come riqualificazione energetica. Questo si ha diritto a un rimborso ai fini IRPEF in 3 anni, in funzione poi della tipologia dell'intervento e della spesa realmente sostenuta. Giovanni, tu ci ristrutturare con l'aiuto del fisco il capitolo della guida scelta che esce oggi con Il Sole, che abbiamo scelto appunto di affrontare oggi con Salvadanaio. Dicevamo il beneficio fiscale del 36%, lo conosciamo ormai da diversi anni, sono molte le famiglie italiane che in questi anni hanno utilizzato questo incentivo per rimettere a nuovo la propria abitazione, molti condomini anzi, perché noi siamo sempre poi abituati a parlare di unità familiari, ma molto spesso insomma si tratta di lavori che in realtà riguardano interi edifici. Sì, sicuramente, anche perché le ristrutturazioni affrontate nei condomini in genere chiedono spessissimo la detrazione del 36%, anche perché basta che uno dei condomini la chieda, tutti gli altri sono un po' costretti a chiederla, e l'amministratore addirittura, secondo certe interpretazioni della giurisprudenza, deve farla anche se non gli è chiesta dall'assemblea di condominio. Ovviamente nelle situazioni invece singole succede che gente anche che avrebbe sicuramente la convenienza a chiedere la detrazione non la chiede perché spera di risparmiare sull'IVA, che peraltro invece è discesa al 10%, spesso per ignoranza, perché poi alla fin fine se si fa il calcolo conviene più la detrazione che l'evasione fiscale. Beh, direi che non dovremmo neanche utilizzare questo termine in questa trasmissione. No, ma si tenta di creare una convenienza della detrazione anche per evitare l'evasione fiscale, per cui credo che concretamente si possa anche parlare di evasione. Certo, io direi di andare nel vivo della nostra trasmissione, grazie anche alle domande dei nostri ascoltatori che poi ci permetteranno di leggere passo passo la guida. Cominciamo con Alessandro dalla provincia di Pisa, che saluto. Alessandro, benvenuto. Buongiorno signora Rosciani. Buongiorno a lei Alessandro. Senta, intanto un grido di mi aiuterei. Oh santo cielo, speriamo. Allora, bene. La domanda per il vostro esperto. I nostri esperti, sì. Tucci, sì. Io ho iniziato i lavori di ristrutturazione per la mia prima casa nel 2007, verso il dicembre 2007. Terminerò i lavori nel 2009, nei primi mesi del 2009. Posso avere intanto l'agevolazione fiscale per il 2007 o devo attendere la fine dei lavori? E poi, la comunicazione all'Enea va fatta a termine dei lavori, per l'anno scorso era a febbraio 2008, e per il 2009 sa indicarmi una data? Quindi all'Enea, perché intende ottenere i benefici fiscali per la riqualificazione energetica dell'edificio. Al contrario, per il 36%, Giovanni mi può aiutare, dobbiamo rivolgerci al centro operativo di Pescara. Esatto, sì. No, succede adesso sempre più spesso che entrambe le detrazioni vengono chieste. Certo. Ovviamente non per lo stesso tipo di lavori. O si chiede quella del 36% o si chiede quella del 55% per un singolo lavoro, no? Però può capitare che si facciano dei lavori di risparmio energetico e dei lavori di ristrutturazione normali. Certo. E quindi ovviamente i sistemi sono completamente diversi, perché nella domanda del signore a un certo punto c'era un po' di ambiguità, diciamo, no? Per il 36% la comunicazione di inizio lavori va inviata prima dell'inizio lavori, se no che inizio lavori sarebbe? Certo, per l'Enea ecco, invece per l'Enea genericamente, dato che si conseguono degli obiettivi di risparmio energetico che si possono dimostrare solo alla fine. E possono, certo, vengono certificati solo alla fine. Vengono certificati solo alla fine, perché sennò non si può vedere se il risparmio oggettivamente con il collaudo ci sia. Ovviamente la documentazione all'Enea va inviata dopo, quindi ci sono un certo periodo di tempo, che mi pare che siano 20 giorni per adesso. Ogni tanto adesso io ricordo, andiamoci a documentare ricordo, al volo, magari chiedo conferma poi al Ruffino. Si può chiedere conferma dopo il collaudo finale, è anche stato chiarito questa questione. Questo non vuol dire, è stato anche chiarito che però non vuol dire che uno debba aspettare la fine completa dei lavori di risparmio energetico per chiedere la detrazione del 55%. Conta, così come succede per quella del 36%, i momenti in cui si fanno i famosi bonifici bancari che vanno comunque fatti, no? E a questo punto ha chiarito, e credo che tra l'altro sollecito anche la gente, se ha un computer, andare sul sito dell'Enea, perché ha una serie di domande molto interessanti messe come FAQ, cioè le domande più frequenti, più frequenti insomma, fatte dalla gente, in cui è spiegato bene come ugualmente si può ovviamente bisogna aver pagato con i bonifici, per cui se il signore ha cominciato a dicembre e il primo bonifico l'ha fatto nel 2008, a questo punto potrà chiedere la detrazione solo nel 2009. No? Certo. Sentiamo Ruffino, insomma, su questi aspetti legati a lavori molto importanti. Alessandro diceva: io ho iniziato nel 2007 i lavori per ristrutturare la mia casa, evidentemente ha fatto anche dei lavori per riqualificarla dal punto di vista energetico, però evidentemente sono lavori impegnativi che si protraggono nel tempo, non è certamente un caso che deve sorprenderci, dottor Ruffino. Quindi in questi casi, ecco, se vuol dare manforte a Tucci, esatto, come ci si deve comportare? Allora, in questi casi vige il principio di cassa, quindi la dichiarazione di inizio lavori ai fini della deducibilità del 36% presentata nel 2007 deve seguire i pagamenti effettuati nel 2007, per cui ai fini della deducibilità nel 2008 porterà in detrazione il 36% delle cifre realmente corrisposte nel 2007, così come nel 2008 per il 2009. Discorso diverso invece ai fini della riqualificazione generale energetica, dove entro 60 giorni dalla fine dei lavori devono essere trasmesse all'ENEA. Esatto. O telematicamente o attraverso una scheda informativa, diceva bene Tucci, c'è un sito che è www.acs.enea.it dove si riescono a trovare delle informazioni utilissime ai fini dello sgravio fiscale. Quindi diciamo, lui avendo iniziato i lavori nel 2007 può cominciare a chiedere al fisco la restituzione per esempio del 36% di quell'importo che ha già versato nel 2007, anche se i lavori non li ha ultimati, e questa è la sintesi. Perfetto. Per il 36% dovrà preoccuparsi alla fine dei lavori di trasmettere al centro servizio imposte di Pescara la dichiarazione dell'ultimazione dei lavori. Questa è condizio sine qua non per poter ottenere lo sgravio fiscale in via definitiva. Benissimo. Daniela da Genova, benvenuta. Sì, buongiorno. Dunque, la mia domanda è questa. Io sto per ristrutturare una casa in campagna, e una ristrutturazione totale. E tra l'altro appunto anche cioè lavori che riguardano il risparmio energetico. Io attualmente però ho una stufa e un camino, e quindi nella ristrutturazione ovviamente li vorrebbe conservare, sostituire con una caldaia. Ah, vuole chiudere tutto, sì. Ecco. Neanche per bellezza li vuole tenere lì, Daniela? Prego? No, dico, neanche per bellezza li vuole tenere lì, stavo scherzando. No, assolutamente. Via il cammino. Ecco, però mi sono anche un po' informato, un po' letto alcune cose, e mi sembra di aver capito questo, che per aver diritto allo sgravio fiscale del 55% occorre avere un impianto già esistente. Ecco, io nel mio caso posso considerarlo impianto? Penso di no, perché una stufa e un camino non si possono considerare. Certo, Daniela. Beh, questo però sarebbe, adesso chiaramente io do un giudizio del tutto da Alice nel Paese delle Meraviglie, però insomma è una palese ingiustizia. Ma per quale motivo la nostra ascoltatrice vuole mettere un impianto a norma, perché non deve beneficiare del requisito fiscale? Giovanni Tucci però a quanto pare ha ragione. È proprio così. Cioè, anche qua sollecito alla consultazione del sito dell'ENEA, anche perché su questo argomento le circolari e le risoluzioni uscite dal Ministero delle Finanze ce ne sono state tantissime, ma sono un po' ambigue. Invece l'ENEA è molto più chiaro su questo, afferma che deve preesistere un impianto termico, e per la definizione di che cosa sia un impianto termico, perché giustamente si può dire insomma, anche un caminetto, anche certo, una stufa comunque legna ci riscaldava è la casa. Comunque un impianto termico, si rifà al decreto legislativo sul rendimento energetico, e pare che comunque questi sistemi qua devono raggiungere un certo grado di kilowattore prodotto, anzi di kilowatt di potenza. Adesso io ancora una volta non vado a memoria, perché non vorrei sbagliare, però è molto difficile che un caminetto o una stufa legna possano raggiungere. Quindi dal punto di vista formale, in questo caso qua la detrazione non sarebbe possibile. D'altronde la legge parla appunto di riqualificazione, pertanto è abbastanza anche indirettamente concetto, chiaro che il concetto sarebbe migliorare, così esattamente come succede quando hanno fatto le domande dicendomi: io sto costruendo una casa nuova, magari me la sto costruendo io, incaricando una ditta eccetera eccetera su un terreno che ho costruito ed edificabile, posso utilizzare questo, questa detrazione del 55%, la risposta è no, perché non esisteva precedentemente un impianto termico. Beh, però almeno credo che possa in ogni caso ottenere tutti i benefici del 36%, la nostra ascoltatrice. 36% assolutamente sì, anche basandosi sul, se non bastasse, sul fatto che il 36% è concesso anche per il risparmio energetico. Sì. Io vorrei così, insomma, chiedere anche al dottor Ruffino se convalida, non le voglio assolutamente mettere in discussione, insomma, per dare in ogni caso manforte a quanto ci ha già spiegato Tucci, dottor Ruffino. Andiamo anche in questo caso a vedere sull'Enea come, qual è il miglior orientamento possibile per la nostra ascoltatrice. Questo sicuramente. Io mi permetto solo di aggiungere che la norma è sicuramente recente, quindi non è che ci siano moltissime interpretazioni. La norma dice che devono essere già dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti oggetti dell'intervento di riqualificazione, ma non specifica quali. Per cui con un'interpretazione estensiva e redigendo una certificazione, o meglio un'attestazione, un'asseverazione attraverso la quale si identifica il tipo di riscaldamento e si finalizza l'intervento comunque a prescindere da una riduzione almeno del 20% del combustibile utilizzato, quindi del processo energetico prodotto, io ritengo che magari può essere chiesto anche un parere pro veritate all'Enea, ma credo che ci siano ragionevoli possibilità di essere ammessi al beneficio del 55. Quindi insomma abbiamo due tesi contrapposte. Per non saperne leggere né scrivere, indichiamo alla nostra ascoltatrice appunto di rivolgersi direttamente all'Enea, tanto quel lavoro comunque deve farlo, al limite fa una domanda che non le verrà accolta. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina stiamo parlando dei lavori di ristrutturazione delle nostre abitazioni, magari insomma anche in una fase un po' difficile dal punto di vista economico come quella che stiamo vivendo adesso. Qualcuno che aveva pensato di fare questi lavori sarà costretto a rimandare, o chi si accinge comunque a farli deve sapere che la finanziaria ha confermato gli incentivi fiscali per affinché appunto possano dar modo a chi esegue questi lavori di ottenere una restituzione delle spese del 36% da parte dello Stato se si eseguono lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione. Poi magari vi facciamo anche un elenco dei lavori tipici che possono rientrare in questa categoria, o gli sgravi fiscali sono più importanti se invece appunto i lavori riguardano la riqualificazione energetica della nostra casa. Si tratta di sconti del 55% ottenibili ovviamente tramite la dichiarazione dei redditi. Allora abbiamo molte domande di molti ascoltatori, tra l'altro vi ricordo la guida che esce oggi con il Sole 24 Ore, come risparmiare dall'acquisto alla ristrutturazione, è il terzo numero delle guide per spendere meglio che stanno uscendo appunto ogni lunedì con il Sole 24 Ore. Giovanni Tucci, ufficio studi Confappi, tra l'altro nel capitolo dedicato alla ristrutturazione con l'aiuto del fisco c'è anche un interessante metodo per confrontare i preventivi. Cosa dobbiamo fare se scopriamo che tra due preventivi, ovviamente di due imprese diverse, ci sono delle, come dire, differenze macroscopiche relativamente alle spese da sostenere per ogni tipo di lavoro richiesto? Cosa dobbiamo fare? Andare ad un terzo soggetto, immagino, no? le differenze così radicali, cioè attenzione, ci possono essere delle differenze anche apparentemente radicali perché ci sono dei metodi di lavoro diversi. Cioè in realtà, per quanto un preventivo, o meglio un capitolato più che un preventivo, perché un preventivo è una cosa sintetica, un capitolato fatto bene invece dovrebbe riuscire a specificare in modo molto preciso, e in genere fatto dal progettista, per cui il progettista dovrebbe sapere come si eseguono questi lavori e quali sono esattamente le cose da fare, per cui le differenze così enormi non dovrebbero esistere, insomma, no? Per cui ciò può sicuramente fare scattare un campanello d'allarme. Talvolta possono esistere differenze che sono implicite, ad esempio una ditta ha i suoi intrabattelli con cui montare le impalcature e un'altra invece li prende in affitto da un terzo, e questo può incidere sicuramente notevolmente. No, quindi a questo punto forse bisognerebbe chiedere proprio a un terzo, o meglio, se il direttore dei lavori è bravo ed è persona soprattutto importantissima, esterna dalle ditte, quindi è un nostro rappresentante presso le ditte, dovrebbe chiedere delucidazioni alle ditte stesse rispetto a delle richieste magari che anche macroscopicamente sono stravaganti. Romeo dalla provincia di Como, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dovrei installare dei pannelli fotovoltaici. Mm-hmm. Oltre il conto energia, ci sono anche altre agevolazioni o sgravi fiscali? Il conto energia, allora tra l'altro anche questi aspetti vengono toccati nella guida, a pagina 162, il capitolo, proprio d'opera di Giovanni Tucci, si chiama Risparmiare Energia, però io questa domanda la giro a Luca Ruffino. Allora, consulente di Assocond, se in associazione arriva questa domanda, dottor Ruffino, lei si mette lì davanti alla richiesta del nostro ascoltatore, che cosa risponde? Beh, rispondo che sicuramente rientra nei benefici della deducibilità fiscale del 55%. Valutare bene qual è la finalità per l'installazione dei pannelli fotovoltaici. La Regione Lombardia offre dei contributi a fondo perduto per interventi di questa natura. È necessaria sempre un'asseverazione, quindi i pannelli solari e i bollitori integrati, perché generalmente i pannelli fotovoltaici si utilizzano per la produzione di acqua calda. Devono seguire comunque determinate normative, quindi la norma UNI, senza andare a entrare magari non troppo nel merito in maniera specifica, è la 12975, che viene rilasciata o dal produttore o da un laboratorio accreditato, che l'installazione deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Se invece l'intervento viene fatto in autocostruzione, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare, delle strisce assorbenti. Questi sono i concetti fondamentali per essere ammessi al beneficio della deducibilità del 55%. Poi, a mio avviso, consiglierei di inoltrare comunque una domanda alla Regione Lombardia per essere ammessi al contributo a fondo perduto. Grazie, dottore Ruffino. Tu ci volevi aggiungere qualcos'altro su questo? Forse c'è una confusione data dalle parole. Tutto quello che ha detto il dottore è correttissimo, ma riguarda i pannelli solari termici, non i fotovoltaici. Qual è la differenza? Dottor Ruffino, poi magari torno anche da lei. Sì. Essenzialmente i pannelli solari termici scaldano un liquido, diciamo, no? Viceversa, i fotovoltaici, che sono di tecnologia più recente, producono direttamente elettricità dal sole. I pannelli fotovoltaici godono dell'agevolazione del conto energia, che è un'agevolazione completamente diversa da quella del 55%, e come ha chiarito anche il Ministero, le due agevolazioni non sono cumulabili assolutamente, no? Mentre i pannelli solari termici godono quella dell'agevolazione del 55%. Per quanto riguarda la domanda del lettore, non è esclusibile in assoluto che esistano possibili altre agevolazioni date da leggi regionali a proposito del fotovoltaico, anzi lo stesso conto energia ammette entro certi limiti delle agevolazioni diverse se esistono a livello locale. Bisogna verificarli caso per caso. Ecco, mi dispiace avermi messo subito in contraddizione, dottor Ruffino, voleva magari precisare anche lei? No, credo che le precisazioni di Tucci siano assolutamente corrette. Pertinenti. Io ho risposto in funzione del pannello fotovoltaico più che del pannello solare, quindi è corretta e pertinente la correzione di Tucci. Benissimo. A cui io mi associo, quindi non è giusto. No, corretto, ci mancherebbe poi che... No, perché questo tra l'altro voleva confermare un po' anche la domanda da cui Ruffino ero partita inizialmente, che giustamente lei dice la legge c'è, è chiara, poi in realtà scopriamo che magari per una semplice definizione diversa che noi diamo ad un lavoro rispetto ad un altro, allora possiamo ottenere un beneficio rispetto ad un altro, no? Quindi è normativa che per me invece non è per niente chiara, ecco, questo è quello che volevo arrivare a dire all'inizio. Le faccio un esempio: io vorrei rifare gli infissi della mia abitazione e immagino per esempio che una volta rifatte tutte le finestre di casa potevo ottenere tranquillamente l'incentivo fiscale del 55%, dopodiché l'altra sera assemblea di condominio mi hanno detto che non è assolutamente scontato che io lo ottenga, naturalmente devo fare prima un controllo preventivo da un tecnico che mi dice se ho questa facoltà o meno, insomma io qua non so in realtà cosa fare, perché Tucci invece mi diceva che basta che il produttore mi faccia un lavoro secondo determinate regole e io posso ottenere il beneficio. Il produttore fa una certificazione, il tecnico deve esserci sempre comunque e invia una relazione, ma non è necessaria più la certificazione energetica dal 2008 o la qualificazione energetica sostitutiva. Dal 2008 è stata tolta questa necessità per gli infissi all'interno degli appartamenti, attenzione, non quelli condominiali, anche se lì è più raro. Che parliamo della nostra casa. E per i pannelli solari termici. in questi due casi una delle documentazioni necessarie non è più da produrre e invece può bastare la certificazione del produttore, che ovviamente attesta certi limiti di trasmittanza termica, che vuol dire la poca permeabilità, diciamo, certo, per essere più semplici, al freddo. Cioè, il fatto che insomma aver portato esatto, sì, quel lavoro comporta insomma che ovviamente non tutti gli infissi, nemmeno tutti gli infissi a doppi vetri per intenderci, sono agevolabili per il 55%. E questo me lo deve dire il produttore, però. Questo, quindi lei deve prendere, in genere si sostituisce completamente l'infisso, è raro che si metta una vetrocamera a quello esistente, però succede anche questa possibilità. Genericamente sì, se il produttore, quindi quello che sostituisce tutto l'infisso, questo infisso qua saprà bene che grado di trasmittanza ha, la deve attestare ovviamente. No? Insomma, per chi si accinge a fare questo lavoro o lavori anche più impegnativi, la raccomandazione è cercate di avere anche, come dire, di fronte a voi un esperto, un professionista dalla miglior reputazione, perché che sappia anche lui poi orientarsi in tutti i meandri della norma. Eccoci ritrovati, Pietro dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Volevo porre questo quesito. Il nostro condominio deve riqualificare il giardino perché ci sono stati dei problemi strutturali su alcune piante d'alto fusto. Quindi ci sono stati degli strisciamenti di radici che hanno sollevato le pavimentazioni e quindi l'amministratore poi ci ha sottoposto la riqualificazione di tutto il verde con il nuovo piantumato, il prato e l'impianto di irrigazione. Ma questi costi possono essere portati lo stesso in detrazione? Quelli della riqualificazione proprio del giardino. Del giardino, quindi Tucci, questo no, è un caso piuttosto particolare, sì. No, no, è un caso che è successo e su cui si è risposto, per cui credo di poter rispondere. C'è una addirittura giurisprudenza. Beh, non più che giurisprudenza, c'è una casistica trattata dalle circolari della risoluzione delle finanze, semplicemente. La risposta è assolutamente no, cioè, o meglio, ad esempio abbiamo appena sentito che alcuni tasselli del cortile sono stati sollevati, in questo caso sì, perché il 36% è precisamente una detrazione rivolta alle ristrutturazioni edilizie. Ovviamente una potatura di un albero o la spiantatura di un albero, il fatto di piantarne uno nuovo non è però le radici edilizia. Erano talmente estese che hanno danneggiato anche le in questo abitazioni. Caso sì, ecco. Nel senso che allora il rifacimento del cortile sì. Il rifacimento del cortile sì, è un'opera condominiale e va bene, si può detrarre ai sensi del 36%. Il fatto di sostituire un albero, ad esempio, di ripiantarne un altro, no. Ma credo che l'ascoltatore volesse intendere, insomma, visto che comunque c'è stato un danneggiamento, quindi è evidente che il caso è diverso. Allora, dottor Luca Ruffino, consulente di Assocond, alcuni ascoltatori ci chiedono appunto quali sono, adesso non so magari se è il caso di fare un elenco con lei, ma in ogni caso c'è una serie di casi per cui quando si rimette a nuovo la propria abitazione non è necessario comunicare al comune l'inizio dell'attività. Secondo lei va sempre fatta o comunque insomma c'è anche una rosa di lavori da poter escludere? Beh, dipende dall'entità e dalla tipologia dei lavori che devono essere effettuati. Noi consigliamo sempre comunque di inoltrare la dichiarazione, la via dichiarazione di inizio attività. Poi lei dice insomma, per non saperne leggere né scrivere, mettiamoci comunque in regola. Anche è chiaro se... che se devo imbiancare l'appartamento non produco la dichiarazione di inizio attività, ma se devo spostare dei tavolati interni, se devo procedere a una riqualificazione o una ristrutturazione del bagno, spostando, tipo abbattere delle pareti. Esatto, questo sicuramente sì. Noi consigliamo sempre di produrre la dichiarazione di inizio attività e farne menzione anche nel modulo da inoltrare al centro servizio imposta diretta e indiretta. Volevo solo aggiungere un aspetto rispetto alla domanda dell'ascoltatore di Bari. Dell'ascoltatore di prima. C'è una precisazione del centro servizio imposte dove dice che per il risarcimento delle aree cortilizie è ammessa la deducibilità fiscale a condizione che si riproponga come riqualificazione l'utilizzo dello stesso materiale. Per esempio, se l'area cortilizia, l'area grigio è in asfalto, è ammessa la deducibilità fiscale a condizione che si rimetta un'altra volta l'asfalto. Nel caso in cui invece venga utilizzato un altro materiale come autobloccanti, porfido ovvero le spacco, questo non è un intervento deducibile fiscalmente. Benissimo, no, tra l'altro stavo invece guardando sulla guida i cosiddetti lavori minori che non richiedono la dichiarazione di inizio attività, c'è un piccolo elenco, per esempio c'è la riparazione o sostituzione di porte e finestre, l'apertura di una porta nello stesso appartamento, l'allargamento porte, quindi insomma un piccolo elenco di lavori che non richiederebbero teoricamente la dichiarazione, anzi che non richiedono la dichiarazione di inizio attività, è riportata anche sulla guida delle Sole 24 Ore. Franco da sì, Franco, tu, sì, Tucci, sì, Giovanni, Franco, giusto, Alberto, ti chiamo in 20 nomi. Sì. È più giusto dire che non richiederebbero, perché bisogna stare ben, è una cosa infatti, ben chiara. È un elenco esemplificativo, perché decidono innanzitutto le regioni, che ormai hanno la possibilità di decidere in materia urbanistica, e poi i comuni che cosa sia manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, per cui ci sono alcune opere, diciamo, di confine che possono essere giudicate di manutenzione ordinaria o straordinaria a seconda dei, quindi, di come decidono i comuni. Il suggerimento del dottor Ruffino, che dice insomma mandiamola e così siamo tranquilli con la coscienza. Franco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Io volevo sapere, io ho fatto il tetto, no, su una casa in montagna, ho rifatto tutto il tetto con tutti i criteri per entrare nel recupero energetico. Sì. E io ho mandato la lettera, la raccomandata all'ENEA per inizio lavoro. A un certo punto poi ho messo le finestre, sempre per il recupero energetico, con i bentati e tutto, e devo fare il riscaldamento. Devo fare il riscaldamento perché quelli che c'erano erano tutti, diciamo, erano in ferro e perdevano acqua, e dovrò rifare tutti i riscaldamenti. Però io a fianco alla caldaia che si mette, volevo mettere, mi hanno consigliato di mettere un termocamino che può fare anche del riscaldamento, in poche parole riscaldare l'acqua nei termosifoni. Sì. In poche parole, la caldaia e il termocucina. La termocucina la posso mettere così con una fava prendo due piccioni oppure no? Franco, mamma mia che domanda, mi fa male già la testa. No, intanto prima di tutto, prima di rispondere dal punto di vista tecnico, lei mi pare che abbia detto che ha già mandato all'ENEA una dichiarazione. All'ENEA a Pescara, sì. No, allora no, l'ha mandato al centro operativo di Pescara, non è l'ENEA, è una cosa diversa, Franco. Ecco, infatti per questo c'eravamo confusi. Non ho capito bene, Tucci, che tipo di lavoro vuole fare il nostro ascoltatore. Ha già installato la caldaia, però allora, vorrebbe mettere anche il termocucina. Sicuramente i lavori che sta eseguendo sono detraibili ai sensi del 36%. Per cui, però... Se invece vuole optare per la detrazione del 55%, che è più interessante, ha anche dei limiti di spesa più alti, vanno valutati, nel senso che per intenderci, il fatto di mettere un termocamino di per sé come opera in sé non è agevolato, perché la sostituzione è con caldaie a condensazione o con certe caldaie con certi criteri, anche a biomassa, però bisogna vedere se risponde al criterio di riqualificazione, questa oppure, è una natura diversa, oppure questo può lavoro, essere agevolato se è messo all'interno di opere di riqualificazione completa dell'edificio che riducano il suo fabbisogno termico generale. In queste opere di riqualificazione generale, in effetti, se uno raggiunge un obiettivo finale che vale per tutto l'edificio, si può fare quel che vuole, mettere il tipo di caldaia che vuole, no? Se invece si va a quell'agevolazione che riguarda soltanto la sostituzione delle caldaie, allora magari no. Cioè, quindi va vista a seconda della situazione. Allora, nell'agevolazione di riqualificazione generale ci stanno tutta una serie di lavori, tra cui la coibentazione, la sostituzione degli impianti termici e quant'altro, ed è generale, hai 100.000 di detrazione generale, eccetera, eccetera. Nella sola sostituzione delle caldaie invece c'è una detrazione di 30.000 euro. E cosa deve fare quindi Franco? Nella coibentazione si arriva a 60.000. deve prendere uno che se ne intende, ecco. Ma anche di, dal punto di vista burocratico, noi, oggi, ecco. Anche noi, forse il maggiore non potrebbe rispondergli via radio sostanzialmente, dovrebbe vedere. È una cosa un po' complicata, Franco, ci perdoni. Di che cosa si tratta? Magari insomma. Ci scriva, cerchiamo di valutarla un po' più attentamente. Con documentazione. Questa situazione, sì. Esatto. Non riesco a sentire Sebastiano da Catania, purtroppo, e come non riesco a rispondere, e poi insomma abbiamo capito perfettamente, ma questo ce ne eravamo resi conto anche in molte altre trasmissioni dedicate a questo argomento. Ogni caso è talmente particolare e specifico che chiaramente noi cerchiamo solamente di dare dei criteri generali di orientamento intorno a questo argomento. Poi perdonateci se non riusciamo ad essere precisi, ma insomma questo è davvero un tema piuttosto complesso. Vi ricordo comunque, prima di salutarci, che ancora in edicola con il Sole 24 Ore l'Instant Book, la grande crisi domande e risposte. Noi continuiamo a proporvi le pillole contenenti le parole chiave per definire la crisi. Ecco la parola di oggi. ABS, Asset Backed Securities. I prestiti erogati dalle banche sono un'attività che giace immobile nel bilancio attendendo la scadenza. Ma se la banca non vuole aspettare, può prendere queste attività, impacchettarle in obbligazioni, appunto le ABS o obbligazioni garantite da attività, e venderle a fondi o a privati. Così rientra subito del capitale prestato e può espandere la propria attività. I tipi di prestiti che maggiormente si prestano all'emissione di ABS sono i mutui immobiliari, i crediti per acquisto di autovetture e i crediti connessi all'uso delle carte di credito. Salva Danaio termina qui, grazie a Giovanni Tucci e Luca Ruffino per essere stati con noi. Noi naturalmente torniamo domani, anzi noi ci sentiamo veramente anche stasera a Focus Economia. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.